mezzanotte, ho fatto un sogno sul futuro, ho visto saggi e maggiordomi accasciati contro il muro, ho stretti mani in alto a confessarsi, a sanguinare i loro stratagemmi messi in mostra per colpire, poi il sogno continuava e diventava reale. Intanto l'arte ha un avambraccio rotto, intanto l'arte ha un avambraccio rotto, intanto l'arte ha un avambraccio rotto e il pollice ingessato. E intanto l'arte ha un avambraccio rotto, il petto rosso, il pollice ingessato, lo smalto rosso sulle dita è come scolorito, cancellato. E andiamo nell'antichità, dove possessione divina e creatività. Andiamo nell'antichità, dove possessione divina e creatività sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa. Fidarti con qualcuno, mai bussare alle pareti, non risponderà nessuno. Attenta, c'è un signore steso al sole sui binari, attenta agli oratori travestiti da giullari, attenta ai grattacieli che ti appannano gli occhiali. Ti specchierai per farti compagnia, ti specchierai per farti compagnia, ti specchierai per farti compagnia, per farti compagnia. E intanto l'arte ha un avambraccio rotto, il petto rosso, il pollice ingessato, lo smalto rosso sulle dita è come scolorito, cancellato. E andiamo nell'antichità, dove possessione divina e creatività. Andiamo nell'antichità, dove possessione divina e creatività sono la